ho immaginato di rincontrarti dietro la luna. Stavi camminando nello spazio e mi sembravi così leggera come una piuma, come se non esistesse un dopo e neanche un prima. Sporco come il cielo di stasera, come il mio bisogno di rubarti dal passato. Ma è buono quel profumo che mi hai regalato. E se per caso in un attimo, per un attimo, durasse tutta la vita, la nostra estate infinita, e rinnamorarsi a mani nude, mentre il senso delle cose accade e cade tutta una vita, la nostra ultima estate infinita. Silenzio di un sorriso bianco, ghiaccio. Stona la logica dei miei pensieri, stona. È dolce ritrovarti ovunque, parlo di te sempre, senza di te niente. È uno schiaffo la felicità, brucia come lana sulla schiena. E se per caso in un attimo, per un attimo, durasse tutta la vita, la nostra estate infinita, e rinnamorarsi a mani nude, mentre il senso delle cose accade, e cade tutta una vita, la nostra ultima estate. Di un sorriso bianco criminale, dentro le ferite, ghiaccio in un bicchiere, ghiaccio nelle vene, per non vederci arrivare alla fine. L'unica cosa era andare e sentirti ancora a mani nude, mentre il senso delle cose accade e cade tutta la vita. Infinita, nel silenzio di un sorriso bianco, ghiaccio, bianco, ghiaccio, nel silenzio di un sorriso bianco, ghiaccio.